Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo dell'ultimo romanzo dello scrittore americano Michael Cunningham. Cunningham, lo ricordiamo, è famoso soprattutto per il romanzo Le ore, con il quale nel 99 vinse il premio Pulitzer. Ma suoi sono anche romanzi come Carne e sangue, Dove la terra finisce e Una casa alla fine del mondo. L'ultimo romanzo si intitola Al limite della notte, pubblicato in Italia da Bompiani con la traduzione di Andrea Silvestri. Il protagonista è Peter, un mercante d'arte che a un certo punto della sua vita sente che gli manca qualcosa, sente cioè la necessità di entusiasmarsi per qualcosa o per qualcuno. E questo qualcuno si materializza, è il fratello della moglie che decide di passare un po' di tempo in casa di Peter. Noi abbiamo incontrato Michael Cunningham e gli abbiamo chiesto innanzitutto com'è nata l'idea di questa trama. I never really know where my inspirations come from, frankly. They just seem to descend on me. I have an idea. Non so esattamente da dove mi vengano le ispirazioni per le mie storie. Diciamo che discendono su di me. Mi viene un'idea, rimango lì, la medito per uno o due mesi. Se mi rendo conto che non è assurda, comincio a scrivere. It doesn't seem like a silly idea. I start to write. Chi è il protagonista, Peter Harris? Peter Harris is a man who has been selling art for most of his life. Peter Harris è un venditore d'arte, lo è stato per quasi tutta la vita, ma è deluso dall'arte. E quindi è alla ricerca di qualcosa di bello, di vero, che non ha trovato nell'arte che ha venduto. Non è un personaggio autobiografico, anzi, forse un po'. Tipica crisi dei quarantenni? Yes, yes, yes. Peter has reached the age that Dante had reached when he found himself lost in a dark. Sì, diciamo che Peter ha raggiunto l'età che Dante aveva raggiunto quando era perso in una selva oscura e la giusta via era smarrita. Ha 44 anni, ha la crisi di mezza età, forse un po' precocemente perché molti di noi ci arrivano ai 60. Peter ci arriva prima. Some of us don't get there until 60 or so, but Peter's starting early. Però i 40 anni sono un'età tipica del momento in cui le persone entrano un po' in crisi, si guardano un po' alle spalle, hanno un po' raggiunto tutto, però vorrebbero qualcos'altro. Yes, yes, when I was a child and my mother would read fairy tales to me. Sì, quando ero bambino mia madre mi raccontava di queste storie che finivano sempre e tutti vissero felici e contenti. E io chiedevo sempre: cosa accade dopo? What happened after Cinderella went to the palace? Cosa accade dopo che Cenerentola va al palazzo del principe? Suppongo che sto ancora facendo quella domanda. I suppose I'm still asking that question. Che tipo di rapporto Peter ha con sua moglie? Peter and his wife Rebecca have a long marriage that's good enough. Peter e sua moglie Rebecca hanno un lungo matrimonio, abbastanza buono. Ma Peter lo mette in discussione perché si chiede se un matrimonio abbastanza buono sia il meglio che uno si possa augurare. A good enough marriage is in fact the best one can hope for. Insomma, Peter vorrebbe di più. Sure, sure. Who doesn't want more? Certo. Chi non vorrebbe di più? Se c'è qualcuno tra di voi che non vorrebbe di più, mettetevi in contatto con la radio perché vorrei incontrarlo. Please call the station. I'd love to meet you. La vita di Peter viene sconvolta dalla presenza del fratello di sua moglie. In che modo questa presenza, appunto, lo sconvolge? Oh, the presence of his wife's little brother throws everything out of whack. La presenza del fratello della moglie sconvolge completamente la vita di Peter perché il fratello è la reincarnazione della moglie quando era giovane, ma in forma maschile. Peter è eterosessuale, non ha intenzione di avere una relazione con il cognato. Però è assolutamente affascinato da questa reincarnazione della moglie da giovane. Reincarnation of his young wife in the form of her much younger brother. Quindi Peter non mette in dubbio la sua identità sessuale. Yes, he does. He wonders if he's gay. Sì, lo fa. Si chiede se è gay e il fatto che se lo chieda indica sicuramente che non lo è, perché la maggior parte di quelli che sono gay, ma non lo vogliono rivelare neanche a se stessi, dicono con sicurezza di non essere gay. Peter invece considera la possibilità e pensa che potrebbe essere gay soltanto per questo ragazzo. Lei è dichiaratamente gay e dice spesso che la sua omosessualità è si ripercuote anche nel suo stile letterario, però non vuole essere definito, non vuole essere etichettato come scrittore gay. Perché? Because I think that the fact that I am gay and a writer. Perché penso che il fatto di essere gay e di essere scrittore può avere un valore, ma non così grande perché sono uno scrittore gay, ma sono anche uno scrittore bianco, sono uno scrittore americano, sono uno scrittore borghese. Sono tutti elementi importanti, ma non definitivi. Quello che è veramente importante sono i libri. What really matters is the books. Nel 99 lei ha ricevuto il premio Pulitzer per la letteratura per il romanzo Le Ore. Quanto le pesa quel premio tutte le volte che inizia a scrivere un nuovo romanzo? It was a huge burden at first. È stato un enorme carico all'inizio. Me lo sono portato dietro in tutto ciò che ho fatto successivamente. Avevo avuto questo premio e mi dicevo, hai realizzato già questo. Cosa sarà di te dopo? Dopo un po' mi sono detto, smettila di avere questo atteggiamento. Cerca di superarlo. Cerca di utilizzare questo colpo di fortuna perché sia una forza trainante per nuovi sviluppi, nuovi cambiamenti che potrai apportare al tuo lavoro. Capisci che hai ottenuto quello che la maggior parte degli scrittori vorrebbe avere. Per rispetto degli altri scrittori, dovevo riprendermi e continuare a lavorare. Understand that you have been given something that most writers would love to have. Out of respect for other writers, just recover and keep writing. Ha paura però sempre del confronto, cioè che i lettori mettano a confronto i suoi nuovi romanzi con Le Ore. I expect readers to make comparisons between The Hours and my new books, and I am writing for readers who are willing to go along with me. Mi aspetto che i lettori facciano dei confronti fra Le Ore e i miei nuovi libri. Io scrivo per i lettori e mi aspetto da loro che mi seguano man mano che come scrittore mi evolvo e cambio. Se il lettore è convinto che io devo continuare a riscrivere ancora una volta Le Ore, lo deluderò inevitabilmente. Non mi preoccupo di questo tipo di lettore. Io scrivo per i lettori che mi seguono. Worry about that reader. I'm writing for readers who are willing to move on with me. In un'intervista ho letto che lei scrive per 5 cari amici e non per una platea enorme. Poi, insomma, chi leggerà il libro si vedrà in un momento successivo. Perché? I find it easier to write with particular people in mind. It helps ground me. Trovo più facile scrivere avendo in mente alcune persone in particolare. Mi rende più solido nella mia scrittura. Mi aiuta a mettere a fuoco. È un po' come preparare la cena per qualcuno di cui conosci i gusti. È come preparare la cena per gli amici ogni sera. Io non sono un bravo cuoco, però penso di scrivere meglio quando penso a un gruppo di amici. Se poi gli altri vorranno leggere i miei libri, ben venga. And then I figure if anyone else wants to read it too, they're more than welcome to. Lei dice che da ragazzino non amava leggere. Quando le è nata la passione per i libri? I really started loving reading when I was in high school. Ho iniziato veramente ad amare la lettura quando ero al liceo. Mi ero innamorato di una ragazzina che praticamente mi costrinse a leggere Mrs. Dalloway. Io volevo fare impressione su di lei. Alla fine non ho fatto colpo su di lei, però per la prima volta mi sono reso conto che in un libro Virginia Woolf riusciva a fare con le parole qualcosa che soltanto Jimi Hendrix riusciva a fare nella musica. Quindi, se mi piaceva Jimi Hendrix, poteva piacermi Virginia Woolf. E se mi piaceva Virginia Woolf, mi sarebbero potuti piacere altri autori. Understood that if I could love Jimi Hendrix, I could love Virginia Woolf. And if I could love Virginia Woolf, I could probably love other writers as well. E questo era Michael Canning, Amore in libreria con Al limite della notte. Prima di chiudere vi ricordo alcuni appuntamenti con i libri. Un appuntamento speciale che ci sarà il giorno di Natale alle 17.30. E poi le due prossime puntate del Cacciatore di Libri saranno in versione un po' diversa. Sempre il 25 dicembre, ma alle 21, i consigli di lettura di autori famosi. E poi sabato 1 gennaio, sempre alle 21, puntata dedicata a cosa leggeremo nel 2011. Le anticipazioni delle case editrici. Come sempre trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.